allora, questo qua è quel microfono amplificato che ti ho detto ieri, Però lo sai che mi piaceva più l'altra? Ti piaceva più l'altra nel senso? Spiegati, dimmi tutto. Questa mi dà l'impressione che sia fine ma allo stesso tempo amplificata. Diciamo che l'altra aveva più medio-alti, dai. L'altra aveva più medio-alti, cioè questa qua è troppo fine come modulazione, non è corposa. Esatto. Guarda, provo a abbassare un po' il livello microfonico a vedere, il livello microfonico del mic sto abbassando, guarda a vedere se va bene, se ha migliorato. Non ha cambiato niente. Adesso è a secca, guarda a vedere se è peggio, guarda un po'. Allora, adesso ha cambiato, è migliore, però ti lascia quella sorta di, ti dico, per dire la S, anziché finire con lascia, fa lascia. Ok. Adesso prova a tenerlo lontano. Guarda se amplifica la radio, abbassa. Si sente che sei lontano, eh? Yes, yes, yes. Quindi il palmarino suo originale è più robusto come modulazione, giusto? Guarda, questo ti sta lasciando una sorta di soffietto come quando soffi nel mic, quel capito? Ok, perfetto, buona sapersi. Bocciato. Magari risolvi con una spugnetta. Adesso mi sta arrivando basso di radio. Io? Sì. Dipende da me, io ho l'MC60 ora. Basta, Aspetta. Guarda un po', 1, 2, 3. Microfono, Etti. Dice c'è microfono. Guarda se cambia qualche cosa, Che sto toccando i fili. Microfono. Guarda un po'. Perfetta. E allora, niente, sono con 450. Sì. Perfetta. Quindi è fine come cosa, è fine. Sono mezzo tentato ad attaccargli il mixer, io mi qua. Non so cosa dirti, ma perché si è abbassato anche questo adesso? Questo è alimentato dalla radio, non è alimentato... santa pazienza. Ma alimentato da cosa? Ma perché stavi usando... Cosa stavi usando alimentato dalla radio, ti? L'MC60. Si è abbassato, sì. Si è abbassato sicuro lì. Magari sono onde elettrostatiche, devo un momento staccare il cavo e... Non so, c'è questo problema. Ok. Io volevo provare il PTT manuale qua. Volevo provare il PTT manuale, visto che mi stai dicendo questa cosa qui. Prova. Io sono qua. Dai, comunque ti ascolto bene lo stesso, quindi. Ma quella sulla DS, cioè la radio fine, cosa non mi piace. Qua ha una diversa ricezione. Quindi ha cambiato? Sì, un po' sì. Qua non la sento perché mi vai anche oltre con segnale, magari è più spinta, Sì. Comunque è fine, non è corposa. Non è male, attenzione, in confronto all'alta ti ho detto. Sì, ma è leggermente più fine, ma poca roba, non è che sia. E poi avevi questo soffietto qua nella S, prova lì Sassari. Sassari. Sì, c'è un pochino, c'è. Magari risolvi con qualche spugnetta, te l'ho detto. Mentre quella del Lincoln era più bella la radio, vero? Hai visto, adesso che hai fatto, mi ha detto mentre, ha fatto... Qualcosa c'è nel mic? Ma sto dicendo, quella del Lincoln era meglio. Ma dovresti ascoltare adesso. Ma è quella che usavo sempre, non te, tu non te la ricordi? Stai cambiando tante volte che non ce l'ho memorizzata, no? Però sono tutti similari. Ok, ok, ok, ok, ok. Questo è un palmarino anche, eh? Questo è un palmare. E allora cosa vuoi di più? Io pensavo era un amplificato. È un amplificato palmare, come può essere l'M300, l'M500 della Intec. Ah, ho capito, ho capito. Ma quelli quadrati grandi? Sì, ha quella grandezza lì, però è tutto sagomato perché è un microfono nuovo. È un microfono nuovo che dicono che si adatta a questa radio qua, eh. O può darsi anche il mic in troppo alto, omitti. No, io ho capito, no, vabbè, quei microfoni lì, cioè adesso quelli nuovi non saprei dirti, quelli di qualche tempo fa a me sinceramente non mi sono mai piaciuti, cioè preferivo sempre quelli da tavolo, giustamente, per comodità, però anche nel parlare, secondo come lo mettivi, distorceva un po', capito, quindi può essere anche quello. Prova a tenertelo sempre a una solita distanza, perché se lo metti anche di lato cambia, sì, guarda, adesso ho abbassato il mic da 50 a 40, adesso lo metto di lato, adesso l'ho messo di lato e adesso è di nuovo dritto. No, giustamente dritto hai leggermente un po' di più l'amplificazione, più grossolana. Yes. Dammi un attimino che mi porto il saldatore a batteria e il PTT manuale che provo a fare una cosa. Vado in garage e lo prendo un attimino, eh? Li prendo subito. Vai, intanto mi mangio la mandarina, va. Allora. E beh, Antonio. Ciao, buonasera, dimmi. Ciao, sono entrato a salutarti. E anche a te, ti stavo salutando. Siccome sto parlando in PMR con... aspetta. Con Daniele, con mio nipote. Pensavo che forse lo sentivi. Con la direttiva, il discorso è quello. No. Va bene, che sto facendo una cosa, già sono qua. Va bene, ok, non c'è problema. Lui c'ha la direttiva con l'apparecchio, quello qua di banda, quel portate che hanno fatto da poco, cinese, quindi 10 watt uscita, sembra che già vada bene. Vabbè, ci stiamo dopo, dai, ok. Prova radio, sto sempre sollevando, prova radio, ok, sono arrivato a 0 dB, sono arrivato a 0 dB, guarda un po', avvisami là, ok, perfetto, ho abbassato un pochino, dimmi un po', dà l'impressione che sono compresso, posso abbassare un po' il livello microfonico ancora, guarda a vedere, dimmi di là quando, ok. Allora, vediamo un po'. Cosa dici? Le metto un po' di basse? In mezzo al QRM, quindi ho un disturbo, è un disturbo quello che ho. Ho spento l'amplificatore, guarda se ce l'ho con l'amplificatore, senza l'amplificatore. Ok, sto sollevando, però più di questo tanto io direi di non sollevare qua, Cosa fa? Ok, adesso non lo fa, guarda un pochino se sta andando bene. Sì, adesso sto provando a dare un'equalizzata qua al tutto. Guarda un po', adesso ho messo un po' di alte frequenze, vediamo un pochino. Ok, Ok, si può registrare, ok. Guarda, adesso sono andato lo stesso a fare... Ok, vediamo un pochino com'è questa radio. Prova. Prova, prova. Mi devo fare un preascolto. Ho attenuato un pochino qua la cosa. Vediamo un po' se ha migliorato qualcosina. Ok, adesso vedi un pochino come sta andando, se è buona. Prova, prova radio. Ha migliorato tanto, giusto? Quindi, ma a livello microfonico lo posso sollevare un po', cosa dici? Ok, ora l'ho portato a 30. Guarda un pochino se va. Prova radio, test, test. Senti un po'. Sollevo ancora un pochino. Ok, perfetto, guarda, io sto sempre un po' sollevando, sto sempre andando ad agire sul master, vediamo un po', prova, prova, esco da, ok, ok, perfetto, vediamo un po' se va bene, prova radio, ok, secondo te di emissione cosa devo fare, mettere più basse frequenze, posso permettermi questa cosa o vanno bene così? Ok, me la registri per piacere, Tetti. Ok, grazie, grazie per la tua disponibilità e grazie per avermi consigliato al meglio il setup di questa radio, dai. Ok, perfetto, adesso ti faccio veloce il passaggio da questo microfono a quello amplificato, eh? Ok. La vorrei, è anche un po' alta di amplificazione, io la gradirei un po' più al naturale, cosa dici? Sì, sì, sì, questa qua è quella che mi hai fatto tu, eh. Tu cosa dici? È al naturale oppure amplificata molto? Ok, perché tu lo sai, a me piace molto, guarda, lo sto abbassando e dimmi quando, ok, a me piace molto al naturale, quindi è per quello che ti ho chiesto una, tu sai come la voglio. Come sono i miei gusti e lavori al naturale con un po' più magari anche corposa, mi segui? Perfetto, perfetto, perfetto, allora vediamo un po', adesso attacco l'amplificatore, eh? Sì, sì, sì, mi sono scusa, mi sono allontanato un attimo. No, mi sono allontanato un attimo. Provo il mic, quello là, amplificato e vediamo un po' la differenza. No, te lo prendo. Mentre questo qua è il mic amplificato che sono entrato poco fa, vedi un pochino qual è meglio. Quindi, però quella là è molto più bassa. Sì. Portami all'altezza di questa qua un attimino, fa la cortesia, riattacco l'altro. Voglio questa, no fine così, la stessa potenza. Ok, dimmi un po' quanto devo salire. Perfetto, guarda, sto sempre sollevando, eh. Se no vado ad agire sul mic gain della radio, perché poi qua dopo un po' mi va... Dai, non posso sollevare perché devo ottenere un certo parametro, però posso sollevare il mic dalla radio. Ok, ora è a 50, ora l'ho portato a 50, devo sollevare ancora. Ora è al massimo, ora è a 63, ora a 63, provo a sollevare un pochino, ok, ok, perfetto, perfetto, perfetto, guarda, adesso mi gioco l'asso della manica, vediamo un pochino, vediamo un po' se irrobustisce questa roba qua, guarda se si, ok, ok, ok, guarda, adesso ho abbassato, adesso ho abbassato di nuovo, adesso però voglio sollevare questo, vediamo se è un po' più corposa, così, ok. Così è come era prima, così è come era prima, va bene? No vabbè fratello, sono in condizioni precarie io, cioè in condizioni precarie, ho fatto un attimino una saldatura al volo per vedere sta roba e niente, adesso attacco l'amplificatore, vediamo come lo amplificatore. Ok, ora ho attaccato l'amplificatore, vediamo se va a saturare. 1, 2, 3, prova radio, test, vedi un pochino, test. Vedi a cosa serve l'amplificatore. Molti dicono l'amplificatore prende solo, non serve. L'amplificatore non è solo potenza, l'amplificatore amplifica l'emissione, soprattutto con certe situazioni. Proviamo in uniform, sera, bravo. Eccolo qua, ci sono anch'io, Prova, prova, e prova. Ma c'hai qualche filo di saldato? No, perché? Cosa sta succedendo? A volte non esci. Ah no, è il PTT, È il PTT di manuale. Il PTT di manuale, ma magari non lo sto schiacciando bene. Comunque va bene così, dai. Devo solo vedere adesso l'emissione che ha in banda laterale, il watt, i watt che toglie in banda laterale, perché ho visto che sta spingendo un bel. Mezzo gai, meno male, mezzo gai. Meno male, perché almeno lo fa lavorare, no? Sì, vedo questa. Devo guardarmi più che altro il parametro della banda laterale in trasmissione, perché sentivo una sorta di ronzio e secondo me sta spingendo un bel. E metti l'altra marcia. Ah, però non hai alimentazione. No, non ho alimentazione, sono in quinta marcia, sono in quinta marcia, stanno dentro le 300 watt. Allora già è buono, eh. Sì, buono. Quindi promossa questa qua, cosa dici? Per me sì. Molto meglio di quell'amplificato, diciamo quel palmare amplificato, vero? Allora, quel palmare amplificato per me era leggermente più alto di questo, però la voce era più fina, molto più fina. Questa è un pochino più grossolana, più naturale, robusta. Quella là invece no. Ti ripeto, era leggermente più alta di amplificazione. Sì, vabbè, ma a me, lo sai così, a me dell'amplificazione non è che mi interessi, più che a me mi interessa che la voce sia naturale, tu lo sai come la voglio io, inutile che io lo chiedo ad altri, tu lo sai come la voglio, l'ho chiesto a Franco poco fa, no, è bella, magari, lui è abituato a sentire proprio baracchini, e tu però sai come la voglio io, perché tu l'hai sentita in cuffia, io ti ho fatto sentire in cuffia come la voglio io. Lì tu hai effetto 105. Sì, a me piace molto quell'effetto lì, deve essere chiara, poi dell'amplificazione che va a gracchiare quell'effetto da guerra, a me non me ne frega niente, io voglio che sia alta e pulita. E questa è così, se la alzi di più te la sporchi, però quando te l'ho detto, hai fatto una pulizia quando hai messo l'amplificatore. Sì, con l'amplificatore pulisce, l'amplificatore serve per quello. L'amplificatore serve per quello. Io, quando dico, ma l'amplificatore lo consiglio sempre, perché se hai qualche impurità e gli entri con i watt giusti, lui ti pulisce tutto quanto. Lui pulisce e poi ti aumenta anche la timbrica di emissione. Guarda, secondo me ci metti anche il pop, lì va bene. Cioè il pop, il filtro? Sì. Va a fare quel p strano, vero? Sì. Ma lo posso togliere quel pop, Quel p lo posso togliere. Aspetta che mi devo allontanare un attimino, poi faccio. Allora. Quel p io lo posso togliere facendo così. Allora, uno. Adesso ci dovrebbe essere molto meno quel p. Guarda, secondo me non ha cambiato quasi niente. E allora devo mettergli un filtro, dai. Devo mettergli un filtro anti-pop. Va bene. Però comunque provate che sia cambiata. No, sti registro, così almeno se ne accorgi, aspetta. Ok. Andrò a mettergli un filtro antipop distanziato di almeno 3-4 cm e poi col suo, diciamo, con la sua setta che prende, che va a interagire in questa cosa qua, dovrebbe avere la, diciamo, l'emissione pulita, perché quel poi sta di distorsione. Grazie. E non solo, ti raccoglie molto anche il respiro. Comunque già te lo senti ora. E ci vuole proprio un antipop qua, eh? Hai visto? Potrei raccogliere anche il respiro quando vai in apnea a casa, devi recuperare. Te lo segna quello, eh? Lo so, però questo sistema qua è una cosa che non raccoglie rumori di fondo, mi segui? Quello là raccoglie amplificazione, quello raccoglie molti rumori di QRA e cose. Aspetta, devo stare utile. Salute, risalute. Allora, così sono i classici 20 watt in FM, ok. Adesso passo in banda, ok, eccomi qua, in FM, frequenza modulata, vediamo un po', prova radio, test, prova, eccolo qua. Sì, io dove sono? Guarda un po'. Sei a fondo scala, si fa scendere la radio. No, la radio bassa è sempre. Ma va bene la grande, va benissimo. No, il microfono è. Va benissimo, sta andando, sta spingendoti. Non so cosa sia, allora. Deve essere qualche onda elettrostatica che stava rompendo i maroni. Sono il 950 ora. No, va bene. Andare. No, io devo mollare troppo, perché devo cucinare la roba dei cani e ancora una mezz'oretta la devo dedicare a loro. Eccomi qua. Prova. Vediamo un po', prova radio. Vediamo un po', prova. Ehi, test, prova radio. Prova, test, prova. Sì. Mi è sparito un gatto, boh, da ieri notte. Ho detto che mi è sparito un gatto da ieri notte, boh, no, non lo so. Facciami domani, devo andare a far vedere la macchina lì, col tipo, col signore, perché poi, vabbè, dopo l'ultimo evento che è successo ieri sera, mi sono dimenticato di mandare la posizione della mia lista, no? E allora ho mandato un messaggio, guardi che la denuncio, ho detto ma stai calmo. Guardi che la denuncio. Davvero, ascolti, guardi che non sta parlando con gli amici suoi, eh? Cioè la denuncio. No, ho capito. Anzi, aspetta, ho mandato un messaggio, ci vedi. Perché poi mi ha mandato un messaggio, non lui, ma la moglie, suppongo. Cosa mi ha scritto? Mi ha scritto, non è per me, aspetta. Ciao, ti scrivo per conto di Antonio Scherbo, si chiama. Il proprietario dell'auto danneggiata dei tuoi cani, visto il tuo comportamento, se entro domani mattina non lo chiami, non mi metto d'accordo, proverà a denunciarti. Non sa chi sono, come mi chiamo, non sa nulla. Però vabbè, non è un capo, questo qua è perché è un anziano e glielo voglio fare io, se no sono andato a cagare mille volte. No, però gli avrei detto, guardi che nessuno vuole fregare a nessuno, non si permetta di minacciare. No, vabbè, ma più che altro è perché l'ho bloccato su, eccetto la domenica, non mi per rompere le scatole, ho detto non mi chiamate, questo è il numero aziendale, no, non è per tutti, quindi ho detto quando se vuole che cosa già chiamo io. E non solo, ha chiamato quando stavo dormendo, quindi per quello l'ho bloccato. Stupidi, vagando mai, ma uno, ma secondo loro pensa che prendono, voglia fregare, la gente è proprio di animo, non lo so. Comunque, gli avrete, guardi, stia calmo perché non è il caso e non è neanche nelle condizioni di farlo, perché non sa, perché non a me non mi conosce, quindi. Anzi, adesso gli è poco. No, vabbè. No, poi ho capito Perché io ho visto due fotografie, cioè ho fatto due fotografie del colore che aveva, era poca roba, con 200-300 euro te ne uscivi. A quanto ho capito, però adesso hanno guardato bene la macchina, quindi c'è molto di più di danno, come fa l'assicurazione. Ho detto, vabbè, io faccio l'assicurazione, dico l'assicurazione, guardate che questo pretende che voi fate la macchina nuova, quindi guardate bene. Sì, ma l'assicurazione del cane, però, l'assicurazione del cane. Sì, l'assicurazione del cane, allora, è mica pago di tasca mia. Infatti. Poi vedrà anche il perito cosa fare. Oi, i Juraedi. Sì, la denuncia, ma cosa devi denunciare? Sono tutto quanto bello raffreddato, Sì, come mai? Cosa è successo? Cosa mi gioco? Io già sono sempre magliettina, sempre coso e forse l'ha pizzicato. Comunque, tacchi pirine e si va avanti. E allora, tacchi pirine, anche mia padre sta tornando per via della caduta. Adesso sembra che stia pian piano migliorando, però sempre qualche dolore ce l'ha. E d'altronde, insomma, l'ha presa buona. Perché non hanno più 20 anni, Adesso le cadute quando si prendono si accusano, capito? Con l'età le cadute quando si prendono si accusano e... Però non la vuoi comprendere che sono delle cose, diventano anche delicati come ossa, come un ematoma, invece di durarti 3 giorni ti dura 3 settimane a quell'età, E va bene così. È arrivata buona la radio, ti è buona? Sì, a parte il raffreddore. Vabbè, te l'ho detto io perché è più segreto. Ok. Sì, segreto intanto. Il giornale. Sì, vabbè, certo. E va bene. Ma l'hai preso quel cordino, ti? Sì, l'ho preso, però oggi non ho avuto modo di fare niente perché mi sono dedicato un po'. Avevo praticamente il pulsante della cassetta del water che lo entravi a forza e praticamente non usciva, lo toglievo la pinza e quindi hanno avuto le scatole per usare l'acqua, allora ho dovuto pulirlo, levigarlo un po' con la carta a vetro, cercare di mettere un po' di CRC, ammorbidirlo, balle varie, e sono riuscito a farlo. Volevo mettere una catenella e non si può mettere perché ha il pulsante laterale, non è quello verticale. Ho aggiustato sempre nel VC tavoletta e tappo che erano rotte cerniere. Insomma, mi sono impegnato un po' di giornata così, volevo anche saldarmi una ruota del cancello perché le ho comprate quelle belle in acciaio da carboni, buona messa, però vuole saldate, anche lì ci vuole il suo tempo, insomma, quindi non ho tralasciato quello lì perché per fare cose un pochino più importanti, ma l'ho presa. Via, vediamo un pochino, scusami, vediamo un pochino se magari sono libero questo fine settimana, vengo e te li cambio un attimino quei cordini, capitoti? Che ci vuole lo strumento per farlo, per cambiare, tu direi, cambiare i cordini, ci vuole lo strumento, ma perché mai si sta l'antenna? Ah sì, no, addirittura ho preso anche una corda bianca, per solo che... non lo so, io volevo scenderlo e mettergli una carrucola buona, ma viene male. Adesso ho preso anche una carrucola buona, ma non viene bene a farlo. Io pensavo di cambiare il cordino e rilegarlo dove era prima. Cosa cambia? Cambia, devo venire 10 minuti, cambiare i cordini, però mettere lo strumento, perché può darsi che cambia qualcosa. Sì, purtroppo è così. Può darsi che cambia qualcosa, che non lo metti proprio nel punto esatto esatto e ti cambia qualcosina, invece con lo strumento lo sbagliamo. Bene, ho capito bene, vediamo, sperando che lo dovrebbe tenere perché manca un acciaio quello che avevamo tirato con la carrucola, vero? E quello vuole preso e vuole cambiato lo stesso, bisogna buttarlo a terra quel palo, mettere il radiale a quell'antenna e mettere il coso, la carrucola nuova. Ehi, vabbè, io l'ho comprato, poi vediamo, non c'è problema. Cioè, non è così, quando sarà che abbiamo tempo, che c'è bel tempo, insomma, non è così, insomma, importante adesso. Mi interessava cambiare quei cordini perché se rompono, mi rompono le scatole, capito? Tocca farli, cioè è proprio fino a fino, è quella lenza che ormai si è mangiata, buh, non so neanche io il perché. Il sole, d'estate, sì, no, quella lì non, io ce l'ho 3 anni quella che ti ho fatto prendere, io quella ce l'ho 3 anni, è sempre bella, sempre tranquilla, quindi va bene, e poi visto 100 metri costa una fesseria, tieni un bel, prova a spaccarla a vedere, prova a tirare, attacchi alla macchina e provi a tirare, tiene, per lo spessore tiene tantissimo, hai detto quanto c'ha a strappo, di quanti chili ha a strappo? No, però non l'ho fatto, però insomma voglio dire, se tiene in tempo va meglio, capito? Una volta piazzata va bene. Fai gli ricambi fra 3-4 anni, no. Ma neanche. Anch'io sono girato. Anch'io penso, insomma, avevo i tiranti che c'erano prima, invece erano in plastica, me l'avevano messi Marco, ma quelli ti sei dimenticato di cambiare, solo che erano messi così un po' la carlona, no? Sì. Ho capito, te li ti ha messo quelli buoni, però quelli che hai preso blu proprio non si vedono, che se non si vede nuda. Sì, a me poco mi interessa, che si vedono, no. L'importante è che facciano il suo lavoro, anzi, stavo pensando di mettere i gruppi, magari tale che non si rompeva. Comunque ho preso anche 25 metri di quella corda bianca, un po' resistente per la carrucola, dovrebbe andare bene, se poi si rompe va a fangalla. Già va bene, ti fregatene che va bene. Ci andiamo in bagno un attimino, mi guardi se senti rumori. Vai, dove? Uniform. Sì, te lo so per dire io, come la carta igienica. Esatto, come la carta igienica. Vedevo il lettore di SVR un po' salire e ho detto strano, cosa sta succedendo? Sta succedendo invece poco fa, come ho riattaccato l'amplificatore, da bravo deficiente, ho lasciato il pin, il piede dell'antenna mezzo svitato. Bello, già va bene. Senti un po', allora, il filtro in low cut, c'è scritto CUT, cosa vuol dire? Low cut, passa basso. Come? Filtro low cut, passa basso. E invece shift cut alto? No, shift no, aspetta, scusami, ho sbagliato. Low cut, così mi hai detto. Allora, O è L O W C U T. Low cut, bassa bassa butti bu, c'è un attimo di aspetta, mentre invece l'altro è H I G H cut. Allora low cut è alta frequenza, bassa frequenza, IGT, CUT, alta frequenza. Perché ti spiego, nella cassa io ho bassa frequenza, l'UQT è a zero, e mentre invece l'altro lo stesso è a zero. Se lo metto a 3 tutti e due, allora ti sento ancora più basso. Sì, sì, sì, lasciali a zero, lasciali a zero, è un attenuatore quello lì. Ti sento anche bene. Sì, sì, sì, sì, sì, è un attenuatore quello lì, lascialo che è buono, è buono quello lì, dipende da cosa, se vuoi ascoltare un'emissione con più basse frequenze devi mettere IGD CUT a meno, cosa so, c'è meno CDB, meno 3, meno CDB c'è scritto. No, parte da 0, 1, 2 e poi l'altro è invece 1, 2, 3, l'alta frequenza. Se tu adesso fai la prova, abbassa, metti a 3 le alte frequenze, vedrai che ascolti solo le basse, le ascolti molto più basso, molto più con i bassi presenti. Sì, l'ho già fatto, per quello l'ho messo tutti e due a zero. Sì, devi trovare un compromesso per quanto piace a te l'ascolto, capito? Io in genere quella roba lì si lascia sempre a zero per una ricezione neutra, cioè senza equalizzazione, perché poi ti capita quello che veramente ti arriva con delle basse frequenze molto accentuate e se esci di gabbo a chi pare che sembra che stai impazzendo autoparlante. infatti, già va bene così, dai. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Comunque. Buono, lasciamo vedere com'è questa cosa, alla grande, sta radiettino, è bella però scalda un pochino, un pochetto, comunque, oggi è tutto il giorno accesa, ma scalda un po', ma non mi interessa, già non ne vale un razzo. E vabbè, ma anche tu mettici una ventola, un frigorifero. No, non gli metto proprio nulla, la lascio così perché è stata progettata così, è così. Aspetta, porca miseria. No. Aspetta un attimino. Sei mancato, Fammi un passaggio. A un certo punto mi sei mancato, non so cosa è successo. Prova. Ti va bene così? Sono entrato a secca comari, vabbè dai, speriamo di no, e vedevo qualcosa impazzire. Cosa è successo? Perché dai, da quando passo in Lima, quando passo in FM devo passare i watt in FM, capite? Invece non li ho abbassati. Bene. Vabbè, io sono con 100, anzi qualche cosa in più, però adesso l'abbasso, aspetta. Eccolo qua, abbiamo 50 watt. Sì. E va bene. No, ma anche a 100, vabbè. Ma cosa dire a futti, ma tassa tutta a manetta, io vado tutta a manetta, ma la futti tutta. No, vabbè, ma è giusto per risolvere un po' la radio e la ventola sta sempre andando. Ma se ho 4,50? No. Sì, pure il ventolo inizia a impazzire, ed è un disastro. Porca miseria, è tutta a manetta, io. Sì, adesso così dovrebbe essere a posto. Così dovrebbe essere a posto. E quindi niente. Che su, come? Aspetta un attimino, scusami un attimino che mi prendo un fazzoletto e soffiare su con i ribelli. E si sente. Eccolo qua, e tuona. Ascolta, che se devo preparare la roba per domani, Mi voglio svegliare un po'. Oggi ho dormito malissimo, che mi sono riposato poco e niente, porca miseria. Allora, capitano, approfitto che mi sto calando la papera. Sì. Anche io adesso prendo e spengo tutto e a nanna. Domani si lavora. Ok? Ciao T, grazie, adesso mi si tappa il naso, dormo male, sembra che mi vedo, va bene, Tino, buonanotte a te e quel real familiare, ci sentiamo domani, se coincide, ma comunque io le radio ce le ho accese, e ciao, buonanotte. Ehi, perfetto, dai, allora, ciao, buonanotte a te e quel real, buonanotte, ciao, buonanotte, ciao. Ah, Gavi. Miti. Saluti a Nicolas, che sta colicando anche lui. Vai. Ciao Gavi. Ciao Nicolas. Buonanotte e buona giornata per domani. E buon tutto. Ciao, a risentirci. Buonanotte, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao Gavi, ciao.